sfascia. Biccio. Ad ogni colpo di gran cassa. Non sento il battito che sfascia, che infrange gli animi più deboli, che butta giù di casa. Ad ogni colpo di gran cassa. Ok. Yeah. Non sento il battito, vedo un mondo stitico, è matematico, la gente esplode come plastico. Mi distingo dalla solita cerchia, resto fuori dalla convinzione di chi vive e non invecchia. Comando la mia vita come meglio credo, resto con chi è puro dentro mentre gli altri non li vedo. Sfogo il mio ego col microfono e gli spray, mentre agisco nel silenzio, qual è il tuo ruolo che fai? Poco spessore hai, troppe convinzioni, in un gruppo uno è l'idolo e restanti sono cloni. Non vedo più il rispetto in mezzo alle persone, mentre tu lo porti a loro poi ti danno del coglione. È una fottuta giungla sto cazzo di posto, ma ho visto dei veri stronzi mettere la testa a posto. È alto il costo, ma il prezzo è quello giusto. Non ti illudere con me solo perché sei più robusto. Non senti il battito che sfascia, che frange gli animi più deboli, che butta giù di casa. Ad ogni colpo di gran cassa, senti la vibra dietro i muri dei palazzi dalla stanza. Non senti il battito che sfascia, che frange gli animi più deboli, che butta giù di casa. Ad ogni colpo di gran cassa, senti la vibra dietro i muri dei palazzi dalla stanza. Sento la vibra quando pompano i sub. Le pareti tremano, trema il pavimento e giù. Il vicinato ormai si chiede se si può, ma si può andare avanti con suo chiasso. Io rispondo con i passi pro go, go, go. Che anche se attorno sento il mare, io mi estraneo ritenendo il mio mondo paranormale. Fuori troppi ma sta con troppe frasi sciocche, poi cerca di convincermi che è colpa delle droghe. Ma cosa non ho visto a far per aver gli occhi addosso? Show di giorni folli, troppo moglie fuori luogo. E più vedo queste scene più sento che non posso andare avanti con queste storie. Quindi tu molla l'osso, apposta, anche se meglio all'inferno. Viaggio fuori dal traffico sentendo il battito in pieno, il treno in corsa, e ormai non lo fermi. La benza sono i battiti più forti dei tuoi schemi. Non senti il battito che sfascia, che infrange gli animi più deboli, che butta giù di casa. Ad ogni colpo di gran cassa, senti la vibra dietro i muri dei palazzi dalla stanza. Non senti il battito che sfascia, che infrange gli animi più deboli, che butta giù di casa. Ad ogni colpo di gran cassa, senti la vibra dietro i muri dei palazzi dalla stanza. Non senti il battito che sfascia, che infrange gli animi più deboli, che butta giù di casa. Ad ogni colpo di gran cassa, senti la vibra dietro i muri dei palazzi dalla stanza. Non senti il battito che sfascia, che infrange gli animi più deboli, che butta giù di casa. Ad ogni colpo di gran cassa.